Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici in ascolto, un caro e cordiale saluto da Alberto Vigilio qui dalla redazione romana. L'argomento di oggi sono le virtù cardinali. Quali sono i cardini della vita buona? Avete tutti saputo di questi orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020? Ecco, un decennio proprio per intraprendere un cammino radicato appunto a quelle che sono chiamate le quattro virtù cardinali, che sono appunto fortezza, giustizia, prudenza, temperanza. Lo stesso arcivescovo Scola, nel pontificale del suo inizio di pastorale nella città di Milano, ha sollecitato proprio, ha invitato la città di Milano a ricominciare dalle virtù cardinali. E poi è interessante perché ci sono diverse iniziative sparse qua e là in Italia, ce n'è una molto significativa, molto interessante anche a Genova, al Quadrivium di Genova c'è il Serra Club che ha organizzato quattro incontri appunto titolati I Cardini della Vita Buona. Sono quattro incontri con poeti, psicologi, predicatori, teologi, biblisti, e tra questi c'è Davide Rondoni, c'è Monsignor Frisina, c'è Fabio Rosini, un predicatore, direttore del servizio diocesano delle vocazioni del Vicariato di Roma, e questi incontri vengono coniugati con la proiezione, la proposta di alcuni film. È molto interessante questa proposta, ma ne parleremo con l'organizzatore più avanti, l'avvocato Emilio Artiglieri di Genova, che proprio al Quadrivium di Genova hanno tenuto lo scorso 17 novembre il primo incontro su il tema della giustizia con il poeta Davide Rondoni. Poi ce ne sarà un altro prossimamente a febbraio sul tema la prudenza, che sarà tenuto alla relazione da Monsignor Marco Frisina, e così via via, la fortezza con il film di Tarkovsky Rubliev, il pittore delle icone Rubliev, e poi il 10 maggio l'ultimo incontro sul tema della temperanza. Ecco, come voglio entrare in questo argomento? Chi posso avere come interlocutore? La prima cosa che giustamente è venuta in mente è come si possono mettere in atto le virtù cardinali in famiglia, nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro. E quindi contattato un professore, un insegnante di religione, per cominciare questa nostra conversazione, questa nostra trasmissione. Il professor Livio Giorgioni, che insegna religione in un liceo romano. Buonasera, professor Livio Giorgioni. Buonasera. Ben trovate, grazie della disponibilità. Grazie. Ha sentito, noi parliamo delle virtù cardinali, ma si parla tanto di una memoria un po' labile, debole, ci dimentichiamo i 10 comandamenti, dimentichiamo le virtù teologali e quindi anche le virtù cardinali. Come stanno messe le cose, nel suo ambiente, con i suoi studenti, rispetto a queste tematiche? Ma diciamo che il discorso della memoria è molto importante, e io personalmente dedico alla riflessione sulla virtù, sulla sfera morale della persona, molto tempo, mi baso sui 10 comandamenti e faccio innanzitutto un'interrogazione dove chiedo ai ragazzi di imparare a memoria i 10 comandamenti, vengono valutati su questo, e poi dedico ad ogni comandamento una lezione per l'approfondimento e la riflessione. Si tratta di un grosso investimento di tempo, perché avendo solo un'ora a settimana, è chiaro che questo lavoro ci porta via quasi un quadrimestre, a volte anche di più, perché poi la cosa bella è che queste lezioni puntano non soltanto a riflettere astrattamente sui contenuti del comandamento, ma a riportarli criticamente a una rilettura della nostra vita, della società di oggi, del mondo di oggi. Ed è bello vedere come in questo modo i ragazzi si sentono quasi istintivamente provocati ad un dibattito, molte sono le domande, la richiesta di approfondimento, e quindi ne esce un lavoro che io credo proficuo, perché lascia ai ragazzi una riflessione, come dire, prolungata e vissuta, ecco, da loro stessi. Quali sono, professor Giorgioni, le virtù, diciamo, che sono più, diciamo, ostiche, tra virgolette, da far assimilare e quindi da comprendere? Sappiamo sono quattro, le ripetiamo, perché quindi anche è un piccolo ripasso appunto delle quattro virtù cardinali: fortezza, giustizia, prudenza, temperanza. Mi viene in mente la prudenza, sappiamo l'avventatezza dei ragazzi, degli studenti, e quindi anche la perseveranza, perché la temperanza, insomma, si coniuga appunto con un'attesa, e quindi anche altri aspetti che certamente lei può cogliere. Ma innanzitutto per me è molto importante far capire ai ragazzi, nell'ottica della religione cattolica, che per noi il conseguimento della virtù non è uno sforzo della nostra volontà, ma è innanzitutto un dono della grazia di Dio, un dono che vive chi incontra Dio, chi ne fa esperienza nella propria vita, anche attraverso quelli che sono i mezzi che la Chiesa ci mette a disposizione, che sono quindi i sacramenti, la preghiera e tutte le vie appunto che ci mettono per cui in contatto con Dio, e quindi questo. E poi cerco, la mia risposta può sembrare paradossale, ma cerco quasi di non dare, di non sapere questa risposta, perché io spingo molti ragazzi a non rispondere a me su quali sono le loro, come dire, le loro manchevolezze, ma dico rispondete a voi stessi, perché a me potete raccontare tutto il contrario di tutto, ma è importante che voi iniziate a dialogare con voi stessi e a riflettere serenamente con voi stessi su quelli che sono i limiti anche della vostra vita, confrontandovi appunto con la parola di Dio e con le sue indicazioni. Interessante, se può restare un po' in linea, volevo chiedere a un caro amico, un artista, come accoglie questo invito appunto di entrare in questa educazione della vita buona. Ho al telefono l'attore, l'amico Pippo Franco. Pippo Franco, ben trovato, come grazie. Stai? Bene, bene, grazie. Benissimo. Ha sentito questa novità? Diciamo, sappiamo che Pippo Franco è un decodificatore, diciamo così, attraverso la sua arte, quindi attraverso la sua sensibilità di quanto accade nella nostra società, e quindi anche il declino, diciamo così, dal punto di vista etico, morale. E poi questo richiamo, educare alla vita buona del Vangelo, un'esortazione proprio dei vescovi, sono proprio questi orientamenti pastorali per un decennio. Pensa che basterà innanzitutto un decennio per, diciamo, entrare in una nuova fase etica, morale, e quindi cercare appunto di accogliere e quindi declinare nella propria vita, a Pippo Franco naturalmente lo chiedo, nella propria famiglia, tra gli amici, nel lavoro, e anche come, diciamo, artista che ha una certa visibilità e certamente deve spendere questi, vendere, comunicare questi talenti. Sappiamo che lo fai anche molto bene nelle trasmissioni televisive, dove spesso sei ospite. Innanzitutto una domanda, ti ricordi, Pippo Franco, quali sono le quattro virtù cardinali? Sono fortezza, temperanza, prudenza e giustizia, non nell'ordine, li ho detti un po' disordinatamente, ma presumono un ordine, insomma, e cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Complimenti, veramente, ecco, perché spesso dimentichiamo, parlo appunto con il professor Giorgioni, che è in linea con noi, un insegnante di religione qui in un liceo romano, e si parlava appunto della difficoltà appunto di ricordare gli stessi 10 comandamenti, quindi le virtù teologali e le virtù cardinali. Ma adesso vorrei lasciarti liberamente, diciamo così, raccontare, testimoniare come queste virtù le applichi oppure le dimentichi, ecco, nel quotidiano, nel vissuto, nel relazionarti con gli altri, con i colleghi, con gli amici. Ma intanto colgo l'occasione per significare, a proposito della vita quotidiana e a proposito dei prossimi 10 anni, come la crisi che dobbiamo fronteggiare, ed è una crisi non soltanto di guerra di mercati, laddove l'uomo è diventato un numero, è diventato il suo codice fiscale, è diventato la pedina di un profitto, dovrà essere necessariamente rivalutato, appunto, da una condizione che ormai si sta dirigendo verso valori che non sono valori umani, in sostanza. Quindi questa crisi e quindi questa vita quotidiana considererà queste quattro virtù, le deve considerare per forza, e tutto sommato era arrivato anche il momento, nel senso che senza l'applicazione di queste virtù, applicazione per come è possibile relativamente agli impedimenti di ciascuno e ai dolori e alle sofferenze che l'uomo deve comunque affrontare insieme alle gioie, però senza la fortezza, la temperanza, la prudenza e la giustizia, qualunque società, qualunque civiltà va verso la rovina. D'altro canto, tutti i governi dovrebbero essere già dai tempi degli antichi re, in sostanza, specie quelli giusti, dovrebbero essere basati su questi principi, cioè è un indirizzo assolutamente inevitabile, come i 10 comandamenti, se l'uomo non vuole distruggere se stesso. Se poi pensiamo che, appunto, l'uomo è l'unico essere umano, essere vivente in grado di fare male a se stesso, ci rendiamo conto quanto sia indispensabile vedere la vita secondo l'ottica cristica, o comunque nel nostro caso, appunto, come dire, come una sorta di salvezza. Di queste virtù, quella che mi somiglia, o quella alla quale tendo a somigliare specificatamente per il mio lavoro, è la prudenza. Fermo restando che qualunque argomento di queste quattro visioni della vita deve essere approfondito, no, a seconda del ciascuno lo vive personalmente, insomma, anche combattendo contro la propria caratterialità quando questa è intemperante. La prudenza è tipica, gli artisti non lo sanno o non se ne è mai parlato, ma è tipica, appunto, dell'artista che deve esprimerci sul palcoscenico, perché lì c'è tutto te stesso e soprattutto c'è il riconoscimento di quello che fai, che viene dato dal pubblico. Noi possiamo pensare qualunque cosa, però è il pubblico che ti promuove. Si nasce e si muore da soli, tutto il resto va fatto con gli altri, grazie a Dio. Gli artisti sanno quanto uno spettacolo può andare bene, un'idea può andare bene, può essere capita, e l'altra magari può non essere capita o essere capita dopo, il che equivale più o meno a un insuccesso, e quindi sa come è legato alla fortuna, come è legato a quegli andamenti anche del come ti senti te, a quella serie di circostanze spesso imponderabili e imprevedibili che possono determinare il successo o l'insuccesso di una cosa. Per cui la prudenza è quella che ti obbliga a considerare un testo meticolosamente, a cercare di capire, di valutare le parole e a cercare di essere presente quando sei là e a cercare, appunto, di raggiungere l'obiettivo. Io ho raggiunto una maturità, se non altro anagrafica, che mi consente, quando sono sul palco, di fare di quella performance un ringraziamento continuo. Per me è un ex voto, è un ringraziamento a Gesù che va avanti prima di me, mi consente di avere lucidità e di aver indovinato quasi sempre quello che faccio e di essere stato prudente. Credo che poi la prudenza permea tutta quanta la mia vita, perché il nostro lavoro è fatto di preparazione, di gestione dei tempi, e quindi siamo obbligati sempre, grazie a Dio, ad essere prudenti. Le virtù teologali, Pippo, te le ricordi? fede? La fortezza, temperanza, prudenza e giustizia? No, no, le altre, fede, speranza e carità. Fede, speranza e carità. Penso ci sono dei teologi che confondono le teologali con le cardinali. Comunque, oh, scusami. Senti, se rimani un momento in linea, volevo chiedere a Livio Giorgioni, professore di religione che abbiamo in linea, lui ha a che fare con questi giovani, con questi ragazzi, questi adolescenti, e sappiamo, diciamo, in quali condizioni l'educatore, il pedagogo entra nella vita di questi ragazzi, di questi adolescenti. Siamo in quella che viene definita l'epoca, l'era cross-mediale, ci sono una trasversalità di messaggi che ci arrivano attraverso la TV, attraverso internet, la pubblicità, la cattiva cinematografia, alcune famiglie purtroppo senza base etiche e religiose. Ecco, Livio Giorgioni, dinanzi a questa situazione, che certamente può sembrare apocalittica, ma che comunque è realistica, ecco, quali speranze ha l'insegnante, il professore di religione dinanzi a questa situazione? Ma l'unica sua speranza, che è una speranza proprio nella fede, è quella di seminare dei semi che poi, se Dio vuole, germoglieranno nel futuro. Io proprio tempo fa, frequentando un gruppo di preghiera del rinnovamento nello spirito, movimento di cui faccio parte, ho incontrato una mia ex alunna, che era stata mia ex alunna il primo mio anno di insegnamento, cioè 13 anni fa. E questa alunna mi ha detto: sa professore, io ho incontrato il Signore proprio in un'occasione difficile della mia vita e mi sono ricordato di una cosa che lei aveva detto a lezione. Ecco, questo, oltre a darmi tanto conforto, mi ha fatto proprio capire cosa significa seminare. Io non mi ricordavo, lei poi mi ha raccontato cosa le ho detto, ma io non mi ricordavo assolutamente dopo tanti anni quella cosa, ma evidentemente era un seme che lì per lì sembrava dimenticato da me in primis, e evidentemente ha portato frutto a suo tempo. Questa è la mia unica speranza, perché come giustamente tu, Alberto, dicevi, oggi viviamo in un'epoca in cui c'è una grande crisi dell'autorità, per cui l'insegnante non è più come una volta che parlava e siccome l'aveva detto lui, no? Certo. Ma purtroppo l'alunno, il ragazzo, subisce le fonti educative o diseducative, a partire a volte proprio dalla famiglia, per cui tante volte io vivo la difficoltà che sembra, quando parlo ad esempio, non so, dell'illiceità, dell'aborto o del divorzio dal punto di vista morale, sembra agli alunni che magari io sto criticando il padre, la madre o persone che loro conoscono. E per me è molto importante in quel caso dire: non sto criticando papà o mamma, loro hanno fatto le loro scelte, delle quali sono responsabili davanti a Dio, io sto parlando a voi di voi. Cioè, se voi da grandi volete essere persone felici, serene, realizzate, fondate, no, sul bene, sulla verità, eccetera, eccetera, quindi spiego i comandamenti. Livio Giorgioni, resta un momento in linea, saluto Pippo Franco con l'ultima domanda. Pippo Franco, la stessa domanda, ecco, nell'era cross-mediale, TV, internet, pubblicità, e quindi anche, diciamo, questo atteggiamento di essere un po' alla page o di vergognarsi di essere virtuosi, ecco, sappiamo che sei un testimone che almeno dal punto di vista della testimonianza, della parola, della presenza appunto pubblica, cerchi sempre di far passare appunto queste categorie importanti che sono appunto la preghiera, la fede e quindi anche il buon esempio. Però nel tuo ambiente certamente ci sono delle difficoltà, si può anche essere, diciamo così, in qualche modo derisi, sì. Ecco, qual è il tuo comportamento, la tua reazione e quindi anche la linea che attui appunto in queste situazioni? Ma io non ho timore del pubblico, nel senso che ho raggiunto me stesso, la presenza cristica ti dà questa forza, voglio dire, perché so di essere nel giusto con Gesù. Conseguentemente il pubblico è un amico ed è un come dire, una sorta di figura unificata che sta lì, unificata dal fatto della finzione del teatro in qualche modo. Certamente io vivo in un mondo che è fatto dell'esatto opposto, o perlomeno tendenzialmente si tende a vederlo così. Per cui però essendo un uomo libero, libero dentro, libero fuori, avendo raggiunto quella posizione del non confondere l'inutile con il necessario, riesco ad esprimermi interamente, perché uso peraltro l'ironia, che è una grazia di Dio di natura francescana, se vogliamo, e poi riesco ad infilare, tanto a permeare le cose che faccio personalmente, cercare di, insomma, sotto sotto c'è sempre questa presenza, no? In fondo la fortezza, la temperanza, la prudenza e la giustizia è quello che andiamo cercando, che andiamo cantando, ma spesso mi capita di infilare dei messaggi profondi, avendo un seguito parecchio interessato, e certo non posso fare più di tanto. Mi piacerebbe che le soglie di attenzione fossero diverse, però ci siamo abituati alla televisione, che dopo tre minuti si cambia canale, per cui ecco che mi capita però, data appunto la posizione interiore che ho raggiunto, di poter infilare messaggi che arrivano proprio al cuore delle persone. Ho scoperto che questo uomo così fortemente degradato, che l'uomo del Grande Fratello, per intenderci, o perlomeno questa apparenza, viceversa è fatta di persone, di un vastissimo pubblico che ama proprio i contenuti. Cioè, paradossalmente, il pubblico che rifiutava i contenuti adesso è il pubblico che li cerca, e bisogna essere abili, cogliere l'occasione e cercare di infilare appunto quelle poche cose che cambiano, possono cambiare la vita di una persona, come appunto è accaduto al professore che sentivamo poc'anzi, che evidentemente si è espresso nel modo giusto, entrando nel cuore di una persona, perché noi non sappiamo bene quando entriamo o quando meno, ma insomma diciamo che l'essere diventati te stessi ti porta a diffondere, anche se non esplicitamente certe volte, il pensiero cristiano, che è quello vincente. Pippo Franco, sono veramente contento di questo spazio, di questa tua testimonianza, di come ce lo hai comunicato, e quindi come certamente gli amici in ascolto avranno certamente gradito. Ti ringrazio, e grazie, quindi testimoni, paladini, punto della vita buona del Vangelo, ovunque sia il nostro campo d'azione. Grazie, grazie Pippo, grazie a presto risentirci. Grazie, ciao. Livio Giorgioni, chiedo di restare un momento in linea mentre abbiamo un altro collegamento telefonico. Tra un po' chiedo all'amico Alessandro di mettersi in contatto, l'avvocato Emilio Altirieri da Genova, che sta appunto organizzando questi quattro incontri intitolati appunto I Cardini della Vita Buona. Ma tra le quattro virtù cardinali, mi sembra di capire, adesso Livio Giorgioni che al telefono probabilmente potrà confermare o smentire, che delle quattro non casualmente viene posta come prima delle virtù cardinali è la fortezza. Infatti nelle schede che ho trovato di Don Timoteo Munari, un sacerdote, che ha fatto veramente un ottimo lavoro sulle quattro virtù cardinali, e praticamente parlando, presentando la virtù cardinale della fortezza, declina praticamente in questi aspetti, in queste categorie, questa virtù. La fortezza è la virtù morale che nelle difficoltà assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. Essa rafforza la decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale. La virtù della fortezza rende capaci di vincere la paura, perfino la morte, e di affrontare la prova e le persecuzioni. Dà il coraggio di giungere fino alla rinuncia e al sacrificio della propria vita per difendere una giusta causa. Livio Giorgioni, mi sembra che sia un ottimo programma per intraprendere appunto la vita di tutti i giorni. Certamente, quello che a me colpisce della fortezza, se posso aggiungere una poi timida parola mia, nella Bibbia la fortezza non è un'immagine astratta, ma è un'immagine concreta, è quella della fortezza, cioè del castello, del castello arroccato dentro il quale la persona si sente al sicuro. E la fortezza nella Bibbia è una metà, un'immagine di Dio, è Dio la nostra fortezza, la nostra roccia. Ti amo Signore mia roccia, dice un salmo, mia fortezza. Ecco, queste parole bellissime di questo sacerdote io le posso vivere quando sono in Dio, quando mi sento che Dio è la mia roccia, cioè quella mia fortezza, quando la mia vita è vissuta in intimo unione con Dio e Lui mi comunica tutta la sua forza. Grazie Livio Giorgioni. Mentre abbiamo in linea l'avvocato Emilio Artiglieri da Genova, che saluto. Buonasera avvocato Artiglieri. Buonasera. Ecco, tornando ancora alla fortezza, appunto ci stiamo soffermando un momento su questa fortezza che nel vostro programma, come vediamo, evidentemente per una disposizione logistica è stato messo al secondo appuntamento, ma ci sembrava proprio importante capire questa prima virtù, prima appunto di passare, non dico in rassegna, esaudire e declinare tutte le virtù cardinali, che è impossibile nello spazio che ci è dato di una trasmissione, ma semplicemente per accendere un interruttore, per far sì che quanti sono all'ascolto possano riscoprire questo tesoro, questa bellezza appunto delle virtù cardinali, quelli che sono appunto i cardini della vita buona. Scrive ancora il nostro amico Don Timoteo Munari: prima di tutto la virtù della fortezza assicura da parte di Dio la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. Per ogni cristiano il bene, il vero e supremo bene, è il Signore Gesù, nostro unico Salvatore. Sovente noi ci troviamo di fronte a terribili dubbi, tentennamenti, proposte allettevoli che vorrebbero farci deviare dal nostro Signore fino al punto di rinnegarlo. Ecco, la virtù della fortezza rafforza la decisione di resistere alle tentazioni che ci vengono dal mondo e dalla stessa nostra fragilità. È un dono che ci rende capaci di essere fedeli alla vocazione cristiana nello stato in cui ognuno di noi si trova, rispondendo con decisione contro ogni sollecitudine cattiva che vuole farci cadere nella trappola del maligno. Professor Giorgioni, un'ultima battuta, un commento su quanto abbiamo ascoltato e poi ci salutiamo. Sì, mi sembra che questo brano appunto confermi un po' quello che avevo detto nel mio ultimo intervento, cioè che la fortezza è un frutto dell'intima unione con Dio. È molto importante da questo punto di vista. Un po' più alta la voce, avvicina un po' più al microfono. La fortezza evidentemente Perfetto. È proprio il frutto dell'intima unione con Dio. È molto importante. Un altro aspetto della virtù, ho citato l'intima unione con Dio, che è una frase del Concilio, dove la Lumen Gentium dice che la Chiesa è il sacramento dell'intima unione con Dio. Sembra un riferimento così un po' avulso, ma in realtà è fondamentale, perché per noi cristiani coltivare la virtù richiede a livelli essenziali proprio la prassi di un'autentica esperienza ecclesiale. Solo vivendo nella Chiesa io vedo esempi di virtù, sono spinto alla virtù, trovo la forza, l'incoraggiamento. In genere si pensa alla virtù come a una qualità individuale, io ho questa virtù, ma è molto importante invece riscoprire la qualità ecclesiale delle virtù, noi siamo forti nel Signore. Grazie Livio Giorgioni, tanti voi, auguri per il lavoro di docente, di pedagogo, e quindi grazie per il lavoro che fate per i nostri giovani. Grazie Radio Maria e saluto anche tutti gli altri ospiti. Grazie Livio Giorgioni, a presto, a risentirci. Professore Emilio Artiglieri, cioè avvocato Emilio Artiglieri, sappiamo che Artiglieri è un avvocato rotale che lavora su Genova e Roma e da sempre è impegnato con iniziative spirituali, religiose, proprio per sensibilizzare, diciamo, i cristiani e quanti già fanno un cammino di fede, quindi a risvegliare, a riscoprire quei tesori nascosti. E recentemente, appunto, dallo scorso novembre, adesso ci sarà un prossimo appuntamento nel febbraio del 2012, il 16 febbraio, al Quadrivium di Genova, alla Sala Quadrivium di Genova, un incontro sul tema della prudenza. Il relatore sarà Monsignor Marco Frisina, biblista. Sono i cardini della vita buona, sono appunto quattro incontri per riscoprire i segreti della vita buona alla luce delle virtù cardinali, declinate appunto nella Bibbia, nella teologia, nella cinematografia, nella poesia, nell'arte, nella letteratura, nella psicologia e nella predicazione. Innanzitutto, Avvocato Artiglieri, complimenti, e se ci può dire, diciamo, com'è nata questa idea, naturalmente immagino sulla sollecitazione della Conferenza Episcopale Italiana e poi appunto con l'esortazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Angelo Bagnasco, che è proprio il Vescovo della sua città. Senz'altro, questo ciclo di conferenze è promosso dal Ferra Club di Genova, che porta il numero 184. Il carisma del Ferra Club è quello dell'aiuto, del sostegno, per meglio dire, della promozione delle vocazioni al sacerdozio ministeriale della Chiesa Cattolica, e quindi è un'associazione distribuita attraverso tanti club distribuiti per tutto il territorio nazionale, che si propone proprio di essere nella Chiesa accanto ai sacerdoti e soprattutto accanto alle vocazioni sacerdotali. Abbiamo ritenuto importante promuovere questo ciclo di conferenze come momento di educazione ai giovani. Sentivo che prima si parlava di educazione, era intervenuto un docente, e in certo senso anche questo ciclo di conferenze vuole essere un contributo a un progetto educativo che, come lei accennava, è stato ideato e portato avanti dalla Conferenza Episcopale, in particolare dal suo presidente, che, come lei accennava, è anche l'arcivescovo della mia città, il cardinale Angelo Bagnasco. C'è bisogno di vita buona, c'è bisogno di riscoprire i cardini della vita buona. E allora, proprio come servizio a questo progetto educativo, come servizio alle vocazioni, si è pensato proprio di riproporre il significato di queste virtù, anche perché, e proprio ad esempio sulla virtù della prudenza, intorno a queste virtù spesso ci sono degli equivoci, ci sono idee poco corrette, e allora bisogna proprio riscoprire la vera natura, la vera realtà di queste virtù, che non sono qualcosa che appartiene al passato, peggio ancora di superato, o che può appartenere a una cultura che non fa più parte dei nostri tempi, ma invece rappresentano una risorsa, una risposta alle molte sfide dell'oggi e del domani. Ecco, il primo incontro, ho visto, è stato fatto appunto sul tema della giustizia, c'era appunto il poeta Davide Rondoni, e è stato proposto anche un film 12 di Nikita Mikhalkov, proprio un film che mette in qualche modo in luce la realtà, diciamo, la vera entità della verità. Infatti, se qualcuno conosce questo film, è un remake di La parola ai giurati di Sidney Lumet, questo film, questo regista americano, che è stato riproposto da questo regista russo. Sono 12 giurati che debbono appunto decidere, quindi ciò che è stato già in qualche modo accertato, ovvero la condanna e quindi la colpevolezza di un imputato. Ecco, senza entrare appunto nel particolare, questi giurati, a mano che si cominciano a confrontare, si accorgono che non tutti sono d'accordo sulla colpevolezza, e quindi l'impianto accusatorio si smonta fino ad arrivare addirittura a 12 non colpevolezze. Per capire quanto è importante, anche attraverso l'arte cinematografica, la poesia, appunto la predicazione, cercare di capire, diciamo, quanto quante possibilità, quante prospettive, quale sguardo può esserci appunto per cercare di capire la realtà delle cose che ci circondano. Ecco, se ci può parlare, diciamo, un momento di questi quattro momenti, come li avete pensati? Ecco, sono stati, come già lei ha accennato, strutturati ciascuno attraverso due fasi: l'incontro con un personaggio del mondo della cultura, della letteratura, dell'arte, come è stato appunto il poeta Davide Rondoni, come sarà per l'incontro del 16 febbraio sulla prudenza con Monsignor Marco Frisina, il 18 aprile avremo lo psichiatra Alessandro Meluzzi sulla virtù della fortezza e infine sulla virtù della temperanza Don Fabio Rosini, che è direttore del servizio diocesano vocazioni del Vicariato di Roma. Quindi in ciascuno di questi incontri abbiamo un momento, una fase in cui c'è una esposizione, per così dire, guidata da un personaggio della cultura religiosa, ma anche della cultura letteraria, musicale, scientifica. E poi l'altro momento, per ciascuno di questi incontri, è la proiezione di ampi spezzoni di un film che aiutano a riflettere, aiutano a concentrare l'attenzione proprio sul tema trattato. E perché meglio forse di tante parole, l'immagine aiuta a concentrare l'attenzione, aiuta a stimolare quelle che possono essere anche delle emozioni, delle sensazioni, e a meglio penetrare appunto nel senso del tema che di volta in volta viene suggerito. Complimenti, quindi, cari amici in ascolto, sono altri tre incontri. Il primo, come è stato detto, c'è già stato, quindi riscoprire questo tesoro prezioso appunto delle virtù cardinali, fortezza, giustizia, prudenza e temperanza, appunto per riscoprire e quindi educare alla vita buona del Vangelo. Sono altri tre incontri, appunto il prossimo è il 16 di febbraio con Monsignor Frisina al Quadrivium di Genova. Ecco, e io, Avvocato Artiglieri, la ringrazio, mi complimento, abbiamo avuto al telefono un docente di religione per capire proprio come, e poi abbiamo avuto anche un artista, un attore, Pippo Franco, che ci ha dato una bellissima testimonianza, e quindi tutto questo concorre certamente per riscoprire quella bellezza nascosta e sopita che si esprime, si manifesta, come diceva appunto Sant'Ireneo, l'uomo che vive è la gloria di Dio, quindi far sì che questa glorificazione di Dio attraverso questa vita buona possa veramente rivelarsi, quindi illuminare le nostre esistenze. Io la ringrazio, Avvocato Artiglieri, le faccio tanti auguri per questi incontri. Grazie, e quindi Quadrivium di Genova, prossimo incontro 16 febbraio 2012, ore 18, Monsignor Marco Frisina, ecco, da teologo, da biblista, ecco, descriverà, parlerà appunto della virtù della prudenza, e poi ci sarà la proiezione di un film che è molto piaciuto, e quindi anche nei cineforum cattolici, molto amato, Uomini di Dio di Xavier Beauvoir, ecco, questo bellissimo film. Poi abbiamo visto che ci sarà un film di Andrei Rublev di Tarkovsky, sul, diciamo, il Rublev delle icone della Trinità, per intenderci, e quindi poi la temperanza con Fabio Rosini, come ha appena detto, e il film coniugato sarà appunto un film su Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo, Thérèse di Alain Cavalier, proiettato, presentato a Cannes nel 1987, che ha avuto un premio speciale da parte della giuria. Cari amici in ascolto, quindi riscopriamo la bellezza delle virtù cardinali, riscopriamo questo tesoro nascosto per essere testimoni del nostro tempo, e quindi testimoni che possono essere sale e luce della terra, come appunto siamo invitati ad essere. Un caro e cordiale saluto, Alberto Di Giglio dalla redazione romana vi saluta. Grazie a tutti, a presto, risentirci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.